Letture di Radio 24. Nel suo libro L'arte del viaggiare lento, Paolo Merlini cerca di trasmettere al lettore la sua passione per i viaggi sugli autobus di linea. Un'impresa non facile, in un paese dove ogni giorno migliaia di pendolari devono confrontarsi con l'inefficienza dei trasporti pubblici. Per lunghi anni, Paolo Merlini, un piccolo industriale marchigiano, ha viaggiato e predicato contromano, in perfetta solitudine, nella sua convinzione che anche in Italia si possa viaggiare on the road, con gli autobus di linea, le corriere. Il modello sono naturalmente i Greyhound americani, i torpedoni azzurri che corrono lungo le highway e sostano nelle stazioni Art Deco degli anni 30. Certo, noi, invece del fascinoso simbolo dell'Evriero, Greyhound appunto, abbiamo decine di sigle improbabili da esercizio di logopedia, SAD, SAF, CONTRAM, COTRAL, SITA, i cui orari vanno oltretutto combinati con pazienti ricerche su internet. Ma, a parte questo, sono di solito compagnie piuttosto efficienti, che tessono una rete capillare di linee extraurbane attraverso tutta la provincia italiana. E c'è spazio anche per viaggi più avventurosi. Per esempio, si può attraversare l'Italia in una notte, dal Salento a Milano, con gli autobus della società Marino, che propone una partenza quotidiana. Nonostante i pregiudizi sui trasporti pubblici nazionali, questi mezzi sono quasi sempre nuovi o in buono stato, puntuali e decisamente economici. Dopo avervi trasportato comodamente ed ecologicamente per strade secondarie, attraverso tutta la bellezza di quell'Italia che così, tanto per dire, chiamiamo minore, vi lasciano puntuali nel centro storico cittadino, a pochi passi dai monumenti più famosi. Aggiungete che si viaggia a 2,5 metri d'altezza e dunque con un punto di vista sul paesaggio davvero particolare, che il biglietto è economico, che non occorre preoccuparsi di traffico e parcheggio e che spesso l'autista si trasforma in un improvvisato cicerone, consigliando visite, osterie e alloggi. Di norma, Paolo Merlini è il solo turista a bordo, confuso nella folla di casalinghe, anziani che regolarmente contravvengono al divieto di parlare all'autista, allievi di scuole di calcio già in pantaloncini e scarpette, giovani mamme con bambini, professori e professoresse, studenti universitari fuori sede, extracomunitari. Un'umanità variegata con cui è facile attaccare discorso e che è un'altra delle attrattive di questo viaggio. E dunque niente. Fallimento totale, su tutta la linea. L'auto in Italia non si tocca e stagione dopo stagione, tratta dopo tratta, Paolo Merlini non ha convinto proprio nessuno. Forse neanche la moglie, che ne sopporta stoicamente le ripetute assenze. Ma almeno ha accumulato parecchio materiale per questo libro di viaggio davvero originale, fitto di informazioni che lo rendono anche una guida perfetta per chi volesse, ma non vorrà, ricalcarne le orme. A corredo della sua recensione del manuale di Paolo Merlini, pubblicata oggi sull'inserto Domenica, allegato al Sole 24 Ore, Claudio Visentin propone 4 itinerari per chi vuole scoprire le bellezze d'Italia viaggiando in corriera. 1. La mobilità dolce delle Langhe. Con gli autobus si possono girare comodamente le Langhe. Sentite il dolce suono delle fermate. Alba, Gallo, Castiglione Falletto, Bussia, Annunziata, Ponte Rocca, Barolo, Novello, Bivio Fontana Fredda, Serra Lunga, Roddino, Monteforte, Monchiero, Dogliani. Quasi un mantra. 2. In Alta Valle Stura in autobus. È disponibile un collegamento giornaliero tra Cuneo e Argentera, in Alta Valle Stura. La linea è la Cuneo de Monte Vinadio. Qui giunti si cambia e un minibus porta i fortunati passeggeri fino ad Argentera, a un passo dal Colle della Maddalena. È su questa strada che Mario Ferretti aprì la radiocronaca della 17ª tappa del 32esimo Giro d'Italia con le famose parole: «Un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi». 3. Nella città di Giacomo Leopardi e di Beniamino Gigli. Raggiungere Recanati in corriera è pratico, comodo e rilassante. Si parte da Civitanova Marche, prima tappa Macerata. L'autostazione è nelle vicinanze dei Giardini Diaz, dove c'è l'ascensore per il centro città. Dopo una passeggiata e magari un piatto di vinci sgrassi, raggiungiamo il natio Borgo Selvaggio in autobus. 35 minuti di estasi paesaggistica. Il capolinea è alle spalle della bellissima piazza Giacomo Leopardi. Lungo la strada per la casa natale si incontra anche il museo di Beniamino Gigli, all'interno del Teatro Persiani. La costiera amalfitana senza auto. Da Napoli a Sorrento si va con la ferrovia circumvesuviana ed è già un bel viaggio. Appena fuori dalla stazione di Sorrento trovate gli autobus. Non potete sbagliare. Complici i tanti turisti anglosassoni, al bus stop si fa la fila come a Londra. Ad Amalfi il piazzale delle Corriere è praticamente sul molo. Scendi, ti giri, attraversi la strada e sei già sui ripidi gradini del Duomo. Un tuffo nel mare di Ulisse, due spaghetti con le vongole e poi la coincidenza per Maiori e Salerno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Visentin sulle orme dell'Evriero, attraverso l'Italia, con gli autobus di linea, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. La crescente dipendenza degli italiani dal gioco d'azzardo è, almeno in parte, una conseguenza indiretta delle iniziative messe in atto dallo Stato per combattere il gioco illegale. Come arginare, dunque, il dilagare delle ludopatie? Luigi Bobba, deputato PD, lancia la sua proposta. È stata di circa 80 miliardi nel 2011 la spesa degli italiani per il gioco d'azzardo. Era poco più di 14 miliardi nel 2000, un fatturato che si è più che quintuplicato. Sono 15 milioni le famiglie che giocano e mediamente ogni italiano spende più di 1.300 euro all'anno per gioco d'azzardo. A giocare sono maggiormente le persone con redditi medio-bassi, in particolare disoccupati e indigenti. Il gioco diventa così, in non pochi casi, una patologia e attecchisce in particolare tra i giovani, ammaliati da spot pubblicitari sempre più invasivi, quanto accattivanti. Perché questa crescita esponenziale? Il governo dice che l'offerta, sia nel numero di giochi che nei luoghi dove si può giocare, è stata ampliata per contrastare il gioco illegale, che vale oggi, secondo Libera, circa 10 miliardi. Ma è altresì vero che l'espandersi del mercato del gioco legale è frutto anche della messa a disposizione di giochi dove è più facile vincere. Se è vero che gli incassi dello Stato sono rimasti sostanzialmente quasi invariati dal 2009 al 2011, circa 9 miliardi, perché allora lo Stato continua con una mano ad incoraggiare e ad espandere la possibilità di giocare e con l'altra si trova a dover fronteggiare il fenomeno delle ludopatie? Infatti, nella legge di stabilità 2011, l'articolo 1 contiene un impegno del governo a definire, attraverso le necessarie intese tra amministrazione dei monopoli e Ministero della Salute, le linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero del fenomeno delle ludopatie conseguente al gioco compulsivo. E ancora, perché lo Stato vieta la pubblicità per le sigarette e i prodotti da tabacco e invece consente che giovani e famiglie siano sempre più esposti al dilagare di spot che incoraggiano il gioco d'azzardo e, nello specifico, propongono i cosiddetti casinò virtuali, dove si alimenta l'illusione che con un click si possa cambiare la propria vita? Anche la stessa Corte Costituzionale ha chiarito che se le regioni o province autonome dettano limiti all'esercizio dell'attività di gioco basati sulla distanza dai luoghi cosiddetti sensibili, al fine di tutelare soggetti maggiormente vulnerabili, è un'azione che rientra in un interesse pubblico primario di gestione anche locale. Nonostante questa sentenza della Corte, non pochi comuni si sono visti bocciare dai TAR ordinanze volte a tenere lontane le sale giochi dai luoghi di aggregazione come scuole o oratori. Serve dunque agire in tre direzioni. Primo, il governo dia rapida attuazione a quanto contenuto nella legge di stabilità del 2011. È passato più di un anno e le linee guida per contrastare le ludopatie non sono ancora venute alla luce. Secondo, sempre il governo, mediante un decreto, regolamenti severamente la pubblicità dei giochi d'azzardo, analogamente a quanto è avvenuto per il tabacco. Infine, il Presidente della Camera solleciti alla Commissione Attività Produttive l'esame della proposta di legge depositata dal Consiglio regionale del Piemonte, nella quale si prevede il divieto di installazione di slot machine nei locali pubblici e nei circoli associativi. Non si può restare inerti di fronte a un fenomeno che, in non pochi casi, getta nella rovina e nella disperazione tante persone e famiglie. Il governo non può chiudere gli occhi, pensando solo agli incassi che ricava del gioco d'azzardo, perché quelle risorse, prima o poi, le dovrà spendere per riparare ai danni delle patologie da gioco compulsivo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Bobba «Difendere i cittadini da ludopatie compulsive», dall'Unità del 29 febbraio.